lui a piedi per i campi, lo stimola, fu rinchiuso con i crampi sul tapirula. Beh, da una prima stima, mio caro ragazzo, dovresti convenire che tu sei pazzo. Mica Van Gogh, mica Van Gogh. Salon del Louvre, tu nell'autosalon del SUV rimani in mutande. Lui olio su tela e creò dipinti, tu olio su muscoli, gare di bodybuilding. Lui paesane, modelle, prostitute, tu passi le notti nel letto con il computer. Lui ha talento, lo sai, tu un po' che non l'hai. Lui scommette su di sé, tu poker online. Lui è saltato per aver incontrato cocaine, tu è saltato per aver pippato cocaine. Lui ha senso e poesia, tu senza poesia. Lui ha fede, tu ti senti il messia. Io ti sento parlare, sto per fare lo stesso. Ho il rasoio tra le dita, ma non ti ammazzo. Avrò pietà di te perché tu sei pazzo. Mica Van Gogh, mica Van Gogh. Allucinazioni che alterano la vista. Tu ti fai di funghi ad Amsterdam, ma ciò non fa di te un artista. In fissa con i cellulari, lui coi girasoli. Girare con te è un po' come quando si gira soli. Colpo di mano cambia il vento come a ruba mazzo. C'è una novità, ragazzo, tu non sei più sano, tu sei pazzo. Thank you.